E se 5 minuti fa avessi cambiato strada? Se potessi tornare 5 minuti prima, 5 minuti prima, 5 minuti prima, forse la mia vita cambierebbe, forse ogni mio sogno si distruggerebbe. Se potessi riavere quei 5 minuti, quei 5 minuti, quei 5 minuti, prenderei la stessa strada. Anche se più vado avanti più la situazione si aggrava. Dimmi quante volte sei stato afflitto dai pensieri, poi sbagli sbagli tipo se davanti un muro acceleri. Ti mangi le dita per ogni situazione non risolta, vorresti tornare 5 minuti prima di ogni scelta. Riguarda me, vorrei andare 5 minuti avanti per vedere in quel tempo che cosa fate voi altri, così da anticiparvi in ogni possibile mossa. Sono avanti anche se sto indietro, Pixar è fida la scossa. A volte 5 prima sono pochi, 5 dopo sono troppi, ma se non li usi bene si raddoppi, non vorrei tornare a 5 prima di ogni sbaglio fatto. A volte si dipende sempre da quel che ho fatto. Se l'ho fatto e ci sarà un motivo, sbagliare spesso non so te ma me mi fa sentire vivo. Vorrei tornare 5 prima da averti conosciuto, è molto semplice così non ti avrei conosciuto. Se potessi tornare 5 minuti prima, 5 minuti prima, 5 minuti prima, forse la mia vita cambierebbe, forse ogni mio sogno si distruggerebbe. Se potessi riavere quei 5 minuti, quei 5 minuti, quei 5 minuti, prenderei la stessa strada. Anche se più vado avanti più la situazione si aggrava. E lo so, 5 minuti non mi basterebbero, sicuro? No, no, no, non mi basterebbero. Sprecando tempo, mandando tutto al macero, convinto sempre di un fatto che 5 non mi basterebbero. Se tornassi a 5 prima che io la birra ci fossimo conosciuti, cosa avrei fatto in quei 5 minuti? Non li avrei sprecati, chiaro, gusto amaro, come il finto sorriso che io vi mostro. Sì, amaro, maschero felicità attraverso una tastiera o un discorso faccia a faccia. Ormai non è più com'era prima, ma sarà meglio ora. Aspetta a me dimostrarlo, quel posto in alto non smetto mai di sognarlo. Se 5 minuti prima Iari fosse andato via, non sarebbe stato preso dalla polizia. La morte e gli infami che agli sbirri tutto ha riferito, 5 minuti prima che il mio orribile sono sparito. Se potessi tornare 5 minuti prima, 5 minuti prima, 5 minuti prima, forse la mia vita cambierebbe, forse ogni mio sogno si distruggerebbe. Se potessi riavere quei 5 minuti, quei 5 minuti, quei 5 minuti, prenderei la stessa strada. Anche se più vado avanti più la situazione si aggrava.